Sulla fiumara secca si deposita una melma di fogna. Un gregge attraversa la polvere e staziona fra copertoni di camion bruciati dove spicca una carcassa di lavatrice. Lo sguardo scavalca. Sullo sfondo collinare brucia doloso il sud, si cala un sub, infilza una tracina, smilza e le evira la testa. Alla marina si alza la puzza serale della lavorazione del maiale e dal caseificio dei prodotti locali. Nella generica piana delle primizie, l'odore di liquirizia e mentuccia è quasi ovunque sparito e comunque non trasmette più un mito anche dove si annida dell'infanzia. La mistica eolica di quando andavo su e giù in bicicletta a rubare fiori di zucca e more, e storto, disdetto, fine della mia campagna.